Essere e benessere. Lo sai bene, non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. Ed un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno, uno sguardo umano, ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice. Andrei Tarkovsky. Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso casa, chiamare i miei, che bella sei, che belle fai, le belle sere, sai, ho visto gli occhi tuoi quando scende la bellezza. Buongiorno da Nicoletta Carbone, da Roma, dagli studi di Roma e dagli occhi dell'amata. Passiamo a quelle che da 500 anni ci osservano, ci seducono e che continuano a far parlare di sé. Parlo degli occhi della Gioconda, donna dallo sguardo enigmatico che ammaglia. Da sempre stimatori e ricercatori la studiano, la osservano, ce la fanno sempre più da vicino conoscere, e in linea con noi abbiamo il dottor Silvano Vinceti, giornalista, scrittore e attualmente presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali, tra l'altro proprio da Firenze, da Piazza della Signoria. Buongiorno. Buongiorno e un buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Che tempo fa a Firenze? C'è il sole? Questa piazza splendida, meravigliosa, con un freddo glaciale, ma questo è il bello dell'inverno, no? Anche qua a Roma fa freddo e c'è un sole magnifico. Io sono venuta vestita leggerina perché non volevo fare la milanese che arrivava proprio con il montone, infatti batto un po' le brocche, ma Roma è sempre magnifica. Ma torniamo invece a noi. La Gioconda è uno dei dipinti più studiati al mondo, eppure lei e il suo gruppo di ricerca per primi avete individuato qualcosa di nuovo. Mi scusi, ma sembra strano che in tutti questi anni nessuno sia riuscito a farlo, e sembra quasi uno schiaffo per gli addetti ai lavori. Sembra paradossale e non credibile, ma la realtà è che si vede quello che normalmente si ricerca, si può trovare. Le cose più ovvie e scontate sfuggono, così come nella vita quotidiana ogni tanto qualcuno ci fa notare nella nostra abitazione o nel nostro ambiente che frequentiamo ogni giorno qualcosa che ci era sfuggito. La realtà è che la Gioconda, pur essendo il quadro più studiato, esaminato come la Sacra Sindone in tutto il mondo, portava con sé un segreto che era dentro gli occhi, quegli occhi che Leonardo ha sempre ritenuto centrali e fondamentali nella sua storia di grande genio, che osservava e traduceva nella pittura oppure nella scultura, una sola scultura mai realizzata, oppure in tutte le altre sue opere di ingegneria, di architetto, di idraulica. Quello sguardo voleva comunicare qualcosa e a tutti era sfuggito. Bastava solo, con una lente di ingrandimento, entrare dentro gli occhi e qualcuno avrebbe visto qualcosa che probabilmente Leonardo voleva, attraverso quel qualcosa, comunicare a tutti quelli che guardavano quel quadro. E voi che cosa avete visto, dottor Vinceti? Allora, innanzitutto tengo a precisare che sono passati 500 anni ed ovviamente il tempo ha fatto la sua azione di logoramento, però si può vedere bene, anche se una lettera va ancora reinterpretata pienamente, nell'occhio sinistro, per chi guarda la Gioconda, c'è una sigla che molto probabilmente dentro l'iride, quindi nella parte diciamo non bianca dell'occhio, e che si può vedere solo con una lente di ingrandimento buona, che potrebbe essere la firma di Leonardo LV, perché Leonardo era ambidestro, ma normalmente scriveva da destra a sinistra, e anche la rovescio, perché per un suo modo di non volere comunicare in modo diretto e immediato quello che lui voleva comunicare. Quindi capovolgendolo emerge fuori questa CDV, che è un monogramma, anche perché lui si esercitava in questo tipo di comunicazione esoterica. Nell'altro occhio, in quello destro, sempre guardando il quadro, lì potrebbe esserci il segreto, perché stiamo ancora completando la ricerca, della modella che ha ispirato Leonardo, di cui da 500 anni tutti cercano di dare una risposta a questo mistero, a questo fascino di questo enigma non risolto. E potrebbe essere o una B o una C o una S. E tutte e tre queste sigle corrispondono a tre ipotesi di donne che o sono state attribuite a Leonardo come modella questa Costanza amante di Giovanna de' Medici, o di donne presenti nella corte di Ludovico il Moro, Ludovico Sforza, detto il Moro, a Milano, nel periodo in cui Leonardo frequentò e diede i propri servigi a Ludovico il Moro, cioè dal 1482 fino a circa il 1499. Per adesso questo è quello che noi... Quindi io, dottore, l'aspetto per la prossima puntata, il mistero. Perché la prossima puntata, siccome stiamo facendo una ricerca storico-geografica e storico-documentaria di tutte le donne che nel periodo milanese Leonardo ha frequentato o che frequentavano lo studio di Leonardo, sì, noi a gennaio renderemo noto un'ipotesi sulla presunta modella che ha ispirato Leonardo, che non corrisponde a nessuna di quelle che in tutti questi decenni e secoli sono state nominate per come presunte ispiratrici di questa opera geniale che tutto il mondo esalta. Allora, allora ci sentiamo a gennaio per svelare il mistero. Certo. Io credo di sì, perché... Benissimo, benissimo. Io ringrazio e saluto il dottor Silvano Vinceti, presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali. Buongiorno. Un buongiorno a lei, a tutti voi, e un appuntamento alla sua radio, ai suoi radioascoltatori a gennaio, perché credo che a gennaio sarà una cosa altrettanto esaltante e interessante. Ma grazie. Volete sapere dove li ho presi questi soldi, avvocato? Non lo volevo sapere dove li aveva presi quei soldi il signor a Brescia Filippo, detto Pupuccio il Nero. Era un mio vecchio cliente e di mestiere rubava e truffava le assicurazioni, anche se quando veniva interrogato dai giudici diceva di essere muratore. L'indomani avevamo un processo in corte d'appello, per associazione a delinquere e truffa appunto, ed era venuto a pagare. Così non lo volevo sapere da dove aveva preso i soldi che stava per darmi. Lui me lo disse lo stesso. Avvocato, ho fatto un terno secco sulla ruota di Bari, la prima volta della mia vita. Fece una faccia strana, Pupuccio il Nero. Io mi dissi che sembrava la faccia di uno che nella vita aveva sempre rubato e adesso era incredulo di aver vinto qualcosa. E in questo viaggio siamo partiti da lontano, dal mistero della Gioconda, un viaggio che però ci porta a scoprire insieme i significati dello sguardo. Ho voluto proprio inserire questa lettura, è quella di un grande scrittore che legge una sua opera e ha un titolo che è molto in tema con la puntata di oggi. Non posso dirvi di più, cari amici, perché questa è la sfida di oggi. Vi invito quindi a scrivere al 349-238-6666 il titolo di questo romanzo e il suo autore, e l'SMS che per primo ci darà la risposta giusta potrà ricevere a casa l'audiolibro. Non posso dirvi altro, posso però invitarvi, pensate al titolo, ha molto a che fare con il tema di oggi. Oggi ci occupiamo di occhi e di sguardi. La voce, devo dire che ormai è molto conosciuta, oltre che la sua penna, 349-238-6666. Allora, adesso è proprio il tempo di occuparci del nostro sguardo, che affidiamo ai nostri due esperti. Sono qui in studio con me, romani, il professor Filippo Cruciani, oculista, ricercatore al Dipartimento di Oftalmologia all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno. E qui accanto a me ho anche il dottor Guido Ripandelli, specialista sempre in oftalmologia presso l'IRS di Fondazione Bietti di Roma, per lo studio e la ricerca sempre in oftalmologia. Buongiorno anche a Buongiorno. Lei. Dottor professor Cruciani, abbiamo visto quante cose può raccontare lo sguardo della Gioconda. Lei non guarda la Gioconda, vede occhi più normali, ecco, ma che cosa dice lo sguardo ad un oculista? Ma lo sguardo è l'espressione dell'occhio e l'occhio è l'espressione dell'uomo. Nell'occhio ritroviamo l'uomo, questo da sempre, ritroviamo il suo corpo e ritroviamo la sua anima. Da sempre si è detto che l'occhio è la finestra dell'anima e tutti anche sappiamo che nell'occhio il medico, l'oculista in particolare, quando ci sono delle malattie sistemiche, va alla ricerca dei segni di queste malattie. Chi ha l'ipertensione arteriosa viene mandato dall'oculista per il fondo oculare, chi ha il diabete altrettanto. E poi c'è tutta quella branca che sì, ha poco di scientifico, ma che fa parte della cultura anche dell'uomo, che è l'iridologia, cioè si vuole vedere addirittura nell'iride la rappresentazione di tutto il corpo dell'uomo. E questo è molto affascinante. Quindi molto. Io non so se guardarla fisso negli occhi oppure no, far finta di niente e guardare altrove. Però voglio ricordarvi il numero per intervenire in trasmissione, 800 24 00 24. Mentre al dottor Ripandelli io vorrei chiedere di aiutare i nostri ascoltatori a capire quali sono i segnali, i piccoli campanelli d'allarme che possono magari avvertirli che i loro occhi hanno bisogno di riposo, di cure, di attenzione. Li trascuriamo spesso, come sempre, quando le cose vanno bene, no? non le sentiamo e quindi non ce ne occupiamo. Ma noi siamo sempre attenti e insegniamo sempre ai nostri ascoltatori, a me per prima, a prendersi cura di sé in senso lato. Sì, sono anche degli accorgimenti molto banali, molto semplici, per evitare poi magari una situazione infiammatoria, magari leggera, che comunque si risolve, o irritativa, che frequentemente può accadere con la vita di tutti i giorni. Mi viene da pensare semplicemente anche all'uso dei videoterminali, il computer, fattori ambientali tipo l'aria condizionata, il calore, il vento, tutti stimoli irritativi per la superficie oculare, molto semplici da prevenire o da guarire, ma ovviamente sempre meglio la prevenzione con delle regole banali, cioè magari ogni tanto riposare l'occhio quando si lavora ai videoterminali, lubrificare la superficie oculare con questi colliri chiamati lacrime artificiali, cioè delle semplici regole che magari prevengono poi il disturbo acuto, certo. Cioè arrossamento, bruciore, lacrimazione, tutti i sintomi che poi regrediscono con una cura appropriata, ma che possiamo evitare nella vita di tutti i giorni. Professor Cruciani, qual è il difetto refrattivo che rende più faticoso il lavoro al computer? Ma indubbiamente l'ipermetropia, a cui si può associare anche l'astigmatismo. Perché io, che sono diventata presbite, faccio una fatica. Ah sì, poi quando... Vero, adesso che ho due oculisti sfrutterò una visita. E poi quando si diventa presbiti, ecco che si perde l'accomodazione, cioè la capacità dell'occhio di mettere a fuoco da vicino. Chiaramente i disturbi si accentuano, bisogna avere l'occhiale adatto, bisogna rispettare le distanze. Ecco, le problematiche purtroppo in quel momento intervengono. Io invito i miei ascoltatori a chiamarci per raccontarci che cosa del loro sguardo, magari anche no, dei sintomi, dei segnali. Tante volte ci sentiamo la sabbietta nell'occhio appena svegli, oppure facciamo fatica ad accomodare, o abbiamo la sensazione che i nostri occhi si stanchino in modo particolare. Abbiamo fastidio alla luce, perché noi parliamo sempre di protezione dai raggi solari d'estate, però oggi passeggiando per Roma mi godevo questa magnifica giornata, un po' il freddo, un po' la luce, avevo gli occhi veramente a pezzi. Dottor Ripandelli, è vero, bisogna comunque proteggerli anche d'inverno? È una buona regola proteggerli, perché soprattutto anche non nella stagione classica che uno pensa, ovviamente, giustamente, che il sole ha la sua maggiore pericolosità, tra virgolette, ma non dobbiamo demonizzare il sole in sé, però proteggere lo sguardo con degli occhiali, con dei filtri solari appropriati che filtrino i raggi ultravioletti anche d'inverno, soprattutto per questioni di riverbero di luce in condizioni di giornate molto terze, anche in alta montagna soprattutto c'è un'incidenza per cui la luce abbaglia l'occhio e possono crearsi dei disturbi appunto con lacrimazione, con bruciore. Quindi anche in questo caso una norma molto semplice di proteggere lo sguardo, la vista in queste giornate con degli occhiali ripara sia dal vento, quindi da agenti atmosferici, ma soprattutto dalla luce solare. Mi scrive un ascoltatore, Marco da Firenze: non lavoro in ufficio, ma ogni sera i miei occhi sono come quelli di Will Coyote, sempre rossi. Beh, gli occhi rossi sono sempre, professor Cruciani, occhi che soffrono? Sì, Sì, l'arrossamento oculare è molto frequente ed è una delle cause più frequenti per cui una persona si rivolge a un pronto soccorso. Può esserci questo arrossamento che noi chiamiamo iperemia semplice, che è legato a uno stato di affaticamento, come il radioascoltatore così ha scritto, oppure può essere segno di un'infiammazione più o meno seria, e bisogna stare molto attenti. Ci sono delle infiammazioni che sono delle banali congiuntiviti di natura batterica o virale o allergica, sì. Ma tante volte l'arrossamento oculare può nascondere una grave patologia oculare, come un'uveite, come un glaucoma acuto e via dicendo. Gli occhi rossi vengono, dottor Ripandelli, anche per l'utilizzo di cosmetici non adeguati, ad esempio la crema contorno occhi. Ci sono proprio delle, noi donne la mettiamo, forse anche voi uomini, e poi al mattino quando non vanno bene per noi ci troviamo con l'occhio gonfio come un rospo e rosso, e questo è il cosmetico. Potrebbe essere il cosmetico che genera generalmente una dermatite allergica, quindi a livello palpebrale, con coinvolgimento anche delle strutture interne dell'occhio, quindi la congiuntiva con sensazione, come accennava lei prima, di sabbia, di prurito, corpo estraneo dell'occhio e arrossamento diffuso dell'occhio. In questi casi va subito fatta una visita dallo specialista e accertare, un po' andando per esclusione, quali possono essere le cause. Quindi certo. Cominciare a eliminare magari il cosmetico e vedere se fosse quello la causa. Tante volte possono esserci anche delle allergie alla polvere, agli acari, che improvvisamente danno questa sintomatologia. Tanto così, no? Tanto per complicarci per la vita. Esatto. Andiamo a Bologna, c'è Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno al dottor Ripandelli e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Sì. Racconti, sì. Siamo ecco, qua. Diciamo che mercoledì scorso, festa, ho preso un collirio da una vecchia dispensa in casa, sì. E senza badarci troppo mi sono messo queste gocce. Me ne sono messa una per occhio, non di più. Sì. Dopo circa un quarto d'ora ho cominciato a vedere offuscato, poi questo è durato ovviamente per due o tre giorni in maniera forte, dopo aver poi constatato ovviamente che non era un collirio, ma era un collirio particolare che usano gli oculisti. Insomma, ha sbagliato, bisogna sempre leggere, Lorenzo. Lo so bene adesso. E poi capitano sempre mal di denti, l'occhio rosso, l'errore che prendiamo una cosa al posto dell'altra, il farmaco è scaduto quando è festa. Lorenzo, adesso lei sta meglio? Adesso sto meglio. Una storia a lieto fine. Mi dica? Era all'1 o il 0,1% di principio attivo di scopolamina. Allora, il consiglio rapido che possiamo prendere dalla storia di Lorenzo è questo, professor Cruciani. Primo, non mettiamoci farmaci così all'avventura. Certo. Secondo, se per errore qualche cosa finisce nell'occhio, o lo mettiamo noi, nel caso di Lorenzo si è infilato due goccine e poi non ha visto più nulla, o può capitare, no, una qualunque sostanza, lo schizzo d'olio, eccetera, che cosa si fa? Serve l'acqua fresca e laviamo l'occhio come verrebbe da fare? Sciacquati gli occhi oppure... No, bisogna stare molto molto attenti all'utilizzo del collirio. Sì. Davanti a un occhio rosso bisogna essere molto cauti, perché per esempio, se non solo in questo caso in cui c'era una sostanza che creava una paralisi accomodativa dell'occhio, quindi incapacità a vedere da vicino e visione sfocata. La lontananza rimpicciolisce gli oggetti all'occhio, li ingrandisce al pensiero. Arthur Schopenhauer. E noi riprendiamo il tema di oggi. Oggi vogliamo regalare relax e benessere al nostro sguardo. In linea con noi abbiamo Benedetta Spada, maestra di yoga. Ciao Benedetta, bentornata. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Allora, molti dei miei ascoltatori mi scrivono: alla sera ho gli occhi affaticati, lavoro molto al computer, anche se non lavoro al computer, alla sera ho gli occhi gonfi, sento la sensazione il desiderio di stropicciarmi gli occhi per così rilassarli un po'. Lo yoga viene in aiuto, in che senso, Benedetta? Eh sì, anche in questo caso la nostra pratica yoga ci aiuta perché ha creato una serie di piccoli esercizi, una sorta di piccola ginnastica da eseguire per il nostro sguardo ed è faticare, appunto, come dicevi tu, alla fine di una giornata molto intensa, anche se non passata davanti al computer, proprio i nostri occhi. Ed è molto semplice, bastano pochi secondi ed il gioco è fatto. Ci portiamo seduti e iniziamo proprio partendo chiudendo gli occhi per qualche secondo, poi li riapriamo e rivolgiamo solo lo sguardo, quindi non muoviamo il volto in alcun modo, solo lo sguardo verso l'alto. Stiamo un secondo, poi lasciamo che lo sguardo si sposti verso il lato destro, sempre solo lo sguardo, non muoviamo alcun tratto. Poi lasciamo che dopo un secondo il nostro sguardo si porti rivolto verso terra, restiamo lì un istante di un respiro e poi lasciamo che lo sguardo si rivolga alla nostra sinistra e nuovamente torniamo con lo sguardo verso l'alto. Ripetiamo questo esercizio per una decina di volte, sia in senso orario che antiorario. Poi, nell'ultima pratica, ritorniamo a chiudere o socchiudere i nostri occhi. Ed ecco una finale ideale per defaticare il nostro sguardo. Streghiamo le mani tra loro, scaldando i nostri palmi, e portiamo dunque le mani come due coppette sui nostri occhi chiusi. Lasciamo per qualche secondo le mani a lieve contatto con i nostri occhi, con il nostro volto, poi lasciamo che a poco le dita delle mani si distanzino tra loro e quindi in qualche modo la percezione luminosa accolga il nostro sguardo, lentamente riapriamo gli occhi e poi ecco, il gioco è fatto, possiamo riprendere la nostra serata. Ci sentiamo subito meglio. Grazie a Benedetta Spada per essere stata con noi. Buona giornata. Professor Cruciani, un oculista come considera, come vede questi, è il caso di dirlo, questi esercizi? Io credo positivamente. Sono degli esercizi che sicuramente determinano un defaticamento a livello oculare e se non altro creano una situazione di riposo a livello oculare. Quindi ben venga. Meglio farli almeno anche durante la giornata, tanto che siamo al computer, dopo che abbiamo letto molto. Vorrei chiedere al dottor Brandelli una risposta per un ascoltatore che porta le lenti a contatto, dopo aver tolto le lenti a contatto mette il collirio e al mattino ha gli occhi come carondimonio, di brace, rossi, bruciano. Allora lui si chiede: saranno le lenti, sarà il PC o, mi chiedo io, sarà il collirio? Possono essere tutte e tre le cose combinate. Sicuramente l'uso prolungato delle lenti a contatto crea un arrossamento o un'irritazione di base, potrebbe crearlo in pazienti che magari hanno una secchezza dell'occhio, quindi un'insufficienza di lacrimazione. Quindi regola numero uno: quando vi mettete il collirio parlatene con il vostro oculista, perché deve vedere che tipo di lacrimazione avete. È inutile mettere uno che astringe anzi può essere più dannoso. Quindi eventualmente usare, associandolo all'uso delle lenti a contatto, questi lacrime artificiali, colli lubrificanti per l'occhio che proteggono la superficie oculare ed evitano proprio un'azione di attrito della lente a contatto. Sì. Cercare di evitare per quanto sia il più possibile colliri con un uso prolungato e cronico con vasocostrittori, perché poi c'è un effetto di rimbalzo, per cui più si usa il collirio più si ha una sensazione, quindi la sensazione immediata di sbiancamento dell'occhio, poi subentra successivamente un arrossamento cronico. Se il disturbo persiste, certamente la base è fare una visita di controllo, capire l'idoneità per ogni singola persona all'uso delle lenti, quante ore portarle al giorno, non abusarne in ambienti con aria condizionata o quantomeno protegge. L'aria condizionata ci asciuga un po' l'occhio, vero? Sì, asciuga un po'. Abbiamo Mario, ci chiama da Pordenone, andiamo a sentire che cosa ci racconta di bello. Mario? Di, be- di livello no, perché da sei mesi io soffro di lacrimazione. No, perché poi dicono che i miei ascoltatori intervengono per raccontare solo, solo problemi. Mario, mi racconti lei qualcosa di bello che ha fatto oggi, poi veniamo al problema. Di bello che ha fatto che oggi? Sei bevuto un buon cappuccino, basta questo, vada. Sì, sicuramente, poi sono andato a prendere i sacchi per l'immondizia, dove c'è una bella impiegata. Ecco, bene. Macchina verso l'ufficio. E ho sentito la trasmissione, adesso li chiamo. Bravo, perché vediamo se mi danno qualche idea sul da farsi. Bene. Io sono un promotore finanziario, per cui tanto computer, tanta lettura, non solo economica. Mm. E occhiali li ho aumentati negli anni di varie gradazioni. Sono stato dal mio oculista in primavera, mi ha fatto prendere i progressivi con i quali non mi trovavo assolutamente, per cui poi ho cambiato, pensavo che la colpa dell'acclimazione fosse quella. Quando da un altro oculista mi ha fatto riprendere gli occhiali normali aumentando un po', però ho cambiato colliri. Sono stato un periodo a Milano, ho preso un appuntamento, sono andato all'oftalmico, fate bene fratelli, e una dottoressa mi ha detto che ho i condotti lacrimali chiusi, che dovrei fare una stricturotomia, se ricordo bene da come è scritto. Leggendo un po', informandomi su internet, qualcuno dice, ma l'ho fatta, poi mi è tornata la lacrimazione. Allora, io le metto a confronto due oculisti, perché poi di solito quando si va da due medici, uno poi è ancora più confuso, perché uno dice una cosa e uno dice l'altro, non offendetevi, ma infatti il modo migliore per confondersi è consultare due. Noi continueremo a confonderci, dottor Ripandelli, lei che cosa suggerirebbe a Mario con questa lacrimazione, col sospetto di avere il condotto ostruito, questo gli hanno detto. Di fare una visita specialistica dall'oculista che si occupa di vie lacrimali. Esistono anche gli oculisti? Come faccio a trovarli? Vado in giro, diciamo, e chiedo, scusi, la cosa più semplice e immediata in qualunque ambulatorio, fare quello che noi chiamiamo un lavaggio delle vie lacrimali. Quindi con un sondino, con un aghino smusso, si inietta della soluzione fisiologica nel condotto, e questa è la manovra più semplice in casi in cui non doloroso? Ci sia, no, assolutamente no, rapida, indolore, in casi lei l'ha già fatto, mi dice doloroso, e quindi l'ha provato in prima persona, no, l'ho eseguito su pazienti, altri. Per quello dicono non è doloroso, no, non è, generalmente il paziente non urla, non si lamenta, no. Quindi lavaggio delle vie, questo lacrimali, che noi chiamiamo lavaggio delle vie lacrimali, per cui se non c'è una stenosi, diciamo un restringimento anatomico, un'anomalia nei condotti lacrimali, questo dovrebbe risolvere questa lacrimazione. Sì, ma è vero che se uno si opera poi può tornare il problema? Rapidamente, perché no, ho la strada. Rapidissimamente, capisco il collega no, suo, che ci ha chiamato. Capisco il suo problema, perché la lacrimazione è molto fastidiosa, ma per noi è difficile spesso eliminare una lacrimazione, perché come in questo caso dipende da un'ostruzione, almeno mi sembra che la diagnosi sia stata questa, delle vie lacrimali. Ecco, a quel punto si impone il che fare. C'è l'indicazione all'intervento chirurgico? Ecco, questo, come diceva il mio collega, questo deve essere deciso dall'oculista, ma soprattutto dall'oculista che ha grossa esperienza in questo campo, perché la soluzione diventa una soluzione di tipo chirurgico, non abbiamo una terapia medica. E quindi poi è la mano del chirurgo che fa la differenza. Ma anche nella scelta del tipo di intervento. Cerchiamo di non danneggiarli, professor Cruciani, facendo delle strane cose, il collirio sbagliato, le lenti a contatto portate per ore e ore, perché poi magari le donne che portano le lenti a contatto, poi ci sono queste magnifiche colorate che fanno gli occhi blu, verdi, eccetera. Uno esce perché c'è il fidanzato, una cosa, e tocca mettere la lente, certo. Dottore, andiamo a Manuel dalla provincia di Padova. 800 24 00 24. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Gli occhi, lo specchio dell'anima. Bravo, vede che lei, ormai noi faremo così a Essere Benessere. Il primo commento è un commento positivo, solare, un'esperienza bella. Poi, insomma, se ci sta, facciamo anche una domandina. Manuel, qual è la sua? Volevo fare una domanda al professore. Io spessissimo vedo passare davanti gli occhi dei filamenti, specialmente guardando il cielo o dei colori uniti. Questi filamenti che riesco anche a focalizzarli perché sembrano proprio polvere, oppure proprio come si vedevano nei film vecchi. Sì. E da 2-3 anni a questa parte li vedo passare davanti gli occhi. Cosa potrebbe essere? Io ho provato anche con dei lavaggi degli occhi, eccetera, ma non ho avuto nessun risultato. Professor Cruciani, questi filamenti? Sono praticamente dei piccoli corpi mobili che si trovano nel vitreo, all'interno dell'occhio. Il vitreo è una sostanza gelatinosa che riveste, che riempie l'occhio, ed è una come tutte le sostanze gelatinose, può presentare dal punto di vista fisiologico, quindi una cosa del tutto normale, queste piccole impurità. Spesso sono anche delle fibre elastiche che si rompono, che si fermano davanti all'occhio, e uno le vede soprattutto quando guarda una parete illuminata, una parete bianca, o come diceva lei, quando guarda il sole o guarda il cielo. La cosa più importante da tenere presente è questa: se c'è un'insorgenza quasi acuta nella comparsa di questi corpi mobili, è bene, è fortemente consigliabile fare una visita oculistica, perché in quel caso si può essere determinato un distacco di vitreo, cioè un distacco di questa massa gelatinosa che ha formato questo addensamento che passa davanti agli occhi. Niente di grave? No, però la visita oculistica va fatta, facciamo, perché può esserci un risentimento sulla retina. E allora abbiamo parlato di benessere dei nostri occhi, vi voglio aggiungere un'altra parola molto importante. Parliamo di riabilitazione, è una parola e soprattutto un tema importante dove clinica, prevenzione e assistenza, le tre parole chiave di tutti coloro che lavorano nell'ambito della salute e della medicina, si incrociano e diventano possibilità, speranza, vera e propria luce per un ipovedente. Sulla riabilitazione si apre oggi a Roma un simposio internazionale importantissimo, perché vedrà la presenza di più di 120 relatori provenienti da tutto il mondo. È stato organizzato e voluto dall'Agenzia Internazionale Prevenzione per la Cecità, che ha creato proprio a Roma presso il Gemelli un polo internazionale per la riabilitazione, che è veramente un gioiello che ci viene invidiato anche dall'estero. In linea con noi abbiamo l'avvocato Giuseppe Castronovo, che è presidente dell'IAPB. Buongiorno avvocato, intanto complimenti. Buongiorno. Avvocato, grazie, avvocato, sì. Questo simposio internazionale permetterà proprio di fare luce sulla riabilitazione, un tema molto importante, molto caro all'IAPB. La riabilitazione visiva è un argomento meraviglioso, importantissimo, perché migliora la qualità della vita di centinaia di migliaia di ipovedenti che vivono il dramma dell'incertezza se perdere la vista e diventare ciechi o guarire. E allora con la riabilitazione, che ripeto un processo fondamentale di interventi pluridisciplinare, psicologo, oculista, riabilitatore visivo, ortottista, intervengono per le loro competenze per migliorare, ripeto, la qualità della vita, nel senso di regolare questo residuo visivo dell'ipovedente e dare psicologicamente certezza alla persona, va bene, che può utilizzare quel residuo visivo in forma ottimale, sia se è un ragazzo che la può utilizzare bene nella scuola, sia se è un lavoratore o un anziano. Va bene, in America, certo, addirittura con la riabilitazione visiva fanno guidare la macchina in determinate ore del giorno. Quindi è molto importante la riabilitazione. Questo simposio, come lei ben ha detto, abbiamo relatori di tutto il mondo, i più grandi esperti di riabilitazione visiva. Anche nel nostro paese speriamo che tutti gli oftalmologi capiscano, comprendano l'importanza che ha la riabilitazione visiva per il 1,5 milioni di ipovedenti italiani. e le relazioni del simposio internazionale sulla riabilitazione le troverete poi giorno per giorno, il simposio durerà fino a venerdì, sul nostro sito, dove abbiamo dedicato proprio una sezione ad hoc. Ringrazio e complimenti all'avvocato Castronovo, presidente dell'IAPB, grazie per essere stato con noi. È già andato, è scappato già al simposio. Professor Cruciani, dottor Ripandelli, grazie per essere stati con noi, grazie per i vostri consigli. Io come sempre vi aspetto a domani. Buona giornata.